Oh, yeah. Niente, c'è lo stesso rumore, non è lo stesso da. Ma che Fiscaccio, e poi qua, no, mette Fiscacci, siccome è molto ritardato, non fa la pena. E poi anche questa parola, ci dice Mario, Rio, cacca, ti chiusi. Sì, con il portatile del vecchio, un po' ritardato, no, adesso sono con quello grande, adesso arriva subito la volta. Sì, sì, ma proprio lo fa anche questo, un po' roba, Poi lo schiaccio per farlo. Sono sette radio e tre strumenti. 2 kW di potenza, fa l'altro che cos'è? La KP1000, così è? Il TM1000, TM. TM1000 no, qua c'è la KP1000 e TM999. Cos'è questo? Un accordatore? Lui non lo so. Come hai fatto? La KP1000, se vuoi la KP1000, quasi come se c'ha due, ne ha. Sì, è uguale, è quello prima della KP1000, è uguale. Prima si chiama TM1000, è uguale a quello. No, lo sono fatto questo accordatore. Sì, si fa la bitolina. Thank you. io c'ho un amico a Ranghero che ha una macchia e volevo prendere a Ranghero, capito? Luca, sei a... Ma quale telefono che mi ha dato tu, sei sicuro? L'abbiamo fatto io, sicuro sono. 620, 28, 623 oppure 620, però la luce che non ti dà una spia o non fai tutto. Com'è? 20, 28, 623. 20, 28, 623 oppure 20, 28, 620. Boh, visto con tutti e due, vabbè, domani è sabato, non va nessuno, però tu la prossima è sempre libero, non risponde nessuno. se non è pure un mezzo di fasciata. Ma lui già funziona, ma no, sono un... come si chiama? Un strumento sotto. Non la fai fare il commutatore anche nella fede di polo? No. Ma ci sono di polo, ma non ci sono, ma è meglio usare il di polo. Come tu vuoi dire? Per la penna, attacco di malattia, ma non è, uso questo, se non uso l'altro. Prego il telefono. Maria, che l'avete finita ieri? E dopo di un po', una mezz'oretta. Dopo aver parlato io, non molto più tardi. Oh. Abbiamo giusto concluso il discorso, un po' e buffo. Ma cosa stai facendo adesso? Sempre con quello da 13 o quello nuovo? No, questo qui è la stazione base, che ho a casa. Ma non l'Argus, l'altro, quello nuovo? No, l'Argus è questo. E l'altro non lo stai utilizzando? Come ricevitore. Ah, così è. Se si sistema un po' il livello della radio, se si riesce a alzare un po' il livello della radio, secondo me va bene quello che fa adesso. È molto più fedele dell'Argus, solo che è un po' più basso come radio. Sì, ma non è che mi interessi più di tanto, ho capito. L'ho pigliato così perché mi andava di pigliarlo, punto e basta. Anche se io sapevo che era diverso, che andava bene per la nostra banda. Papà, la ricezione com'è? Buono? Ricezione è buono. E poi è un bel preciso, Non senti, cioè, differenza noti dall'Argus? Cioè, segnali che senti bassi con l'Argus, con quello molto meglio li prendi? Quello non l'ho provato ancora. Metterli in parallelo per vedere se riceve di più uno o l'altro. No, non l'ho provato. Bisogna che Busconti mette le due stazioni e fare la verifica, cioè delle tutte e due e niente, e vedere con quale ascolto meglio, con uno o con l'altro. Sì, secondo me è la cosa migliore così. Io gli ho fatto la prova quando c'era quello lontano, come cavolo si chiama, quello di Patamona. Ho messo il ricevitore, riceve un po' meglio il ricevitore rispetto al portatile. È tutta un'altra cosa, no? Davvero. No, già dovrebbe andare bene, non ci sono problemi. Poi adesso, quando sarà, se ci riesco mi piglio o il 680 o il 140, va? O il 440. Il 440 l'ho visto da Claudio, un bel giocattolino, non scherza, caspita. Voglio fare studiare un sistema per aumentare la ricezione, cioè utilizzare la manovra in trasmissione e in ricezione trovare un'antenna magari con rotore in modo che ti orienti dove c'è il segnale per aumentare la ricezione, mettere magari una direttiva. Ma hai giocato male, ribassi. Cosa? Sì, perché la direttiva orizzontale funziona solo per i 10. Perché non conviene metterla data lì? Funziona meglio in trasmissione la mantova che in ricezione. Io ho visto che riuscivo, che loro mi ascoltavano bene, ma io li tiravo fuori deboli. Quello dalla potenza della radio di nuovo. Quello dipende dalla potenza con cui trasmettono gli altri. È logico che tu magari gli arrivi più forte e loro ti arrivano più deboli. Dipende da anche con anche così va bene, è importante, però lì dai massimo utilizzando le potenze normali, i 5 watt parliamo, dai, dovrebbero arrivare più o meno allo stesso livello, invece ho notato che in trasmissione migliora che in ricezione. Dipende dalla condizione di lavoro del corrispondente, sempre da quello dipende. Perché io molti mi sento massi qua. E io allora gli arrivo forte, come si spiega? Vuol dire che stanno trasmettendo in condizioni l'osso e l'oro. Quello è il discorso, capito? fa gaffa, vabbè, che c'è da dire, se si utilizza un apparecchio a tempo dell'antenna, non è così. Se si utilizza un HF e c'ha il preamplificatore dell'antenna, puoi aumentare un pochettino il guadagno. Facendo, magari sta facendo qualche andare. Alto Lucca. Solo Lucca e poi ha chiuso. Chi è che mi chiama? Chi è che mi chiama? Avanti che mi chiama, piccolo piccolo. Sto matto, matto. Chi sei, quello del monte? Mario. Dimmi di che monte è, se è monte di Sassari o monte di Gozzo, della Mucca. Basso, basso. Ho detto basso, così. Ma Sì, con l'antennino del portatile o l'antenna esterna hai? Non fare niente per migliorare. Il segnale ce l'hai, però radio è zero, è quasi zero. Mario, tu l'ascolti meglio, prova un po' a capire perché non riesco a tirarlo fuori. Tre gomme, si chiama il duplo, sì, tutte triplo, non lo dico che ho fatto triplo. Diciamo tutto, perché va a 3 minuti, va in presa e va a 3 gomma. 3 gomme, va. Sì, è Luca. Capo del rosso, questo. Ma stava anche dentro di su, non lo so, i negri. Luca, raccontami di questo tipo di camionisti stamattina. Niente, facciamo il proprio, non c'era nessuno, caso era uscito, c'era Natalino, poi stava facendo roba Natalino, e stavo facendo le prove con Maranchino e niente, stavo arrivando la camera, ecco, e si finiva a andare un cammino, frusciamo, ha detto, e ho detto guarda che non lo sto disturbando, e poi niente, è intervenuto Claudio, gli ha detto cosa, gli ha detto ma la CIA. Ma su 10 o su 5 eri tu? Qua ero, su 5 non andava a fare le prove, Roma. Ma cosa vuol dire che imbecille? Tu andrai tu. Come è stato qua, ho detto, ma ti ha detto, lascia in mano una birra. E vai, girami i puntini, puntini. E che gli ha detto, dove sei? Io vengo qui a bermi una birra. Noi venimo, sì, non li infatti in 5 cose. Non le ha risposto? No, spariti. No, Sassarese o Rinfuga? Boh, non so, Roma, non ho idea. Però qua non va bene. E 25, anche io chiudo adesso, amici, ci sentiamo magari stasera, dai. Buon lavoro a chi deve andare a lavorare, buon riposo a chi si deve riposare, buon tutto a chi non deve fare niente. Ciao a tutti. Tra poco devo salire lì con le tue coordinate. Allora, se c'hanno Cres lì da Cappolino. Se c'hanno? Cres. E tu, per le tue battute? Vabbè, io sono di carrozzeria, non di pavimenti. Ma quale sono? Ah, Grecia, Mario, guarda se c'è la corretta, l'attacchi al Deli. E l'ho visto fra la tela di Roberto e la cui di una trattata. Però poi la prima, no, le due facce si lungano, in prima. Fate una buona scienza e divertitevela. scuro, perché sono le cieli, è così. L'antenna c'è qualcosa. Ah, bueno. Marco, ma che mi ha detto ieri, è passato anche lì, ovvero che non c'è nessuno. No, ma immaginate che sarebbe Mentre con il Miranda nulla, proprio QRM e basta. Perché quello anche selettivo, però il segnale riesce a coprire il QRM, capito? Quasi sempre, diciamo. E qui c'è una posizione, se ti sente vuol dire che una cosa sta andando, che non è lunga, però una passata. Io so la questione del radio, selettività del radio, capito? Daniele, adesso non sento neanche io, non ho fatto la posizione. Daniele, leggermente da regolare come ricezione, capito? E quindi automaticamente